notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. E non c'è Simone Spezia quest'oggi, una buona giornata da Anna Migliorati, ma c'è effetto giorno e allora i titoli di questa giornata. La riforma della scuola torna sui banchi, ritocchi dopo le proteste, il Premier convoca i suoi verso una ridefinizione del ruolo dei presidi. Varoufakis a Roma, incontro blindato con Padoan, la Grecia che non vuole compromessi fa tremare tutti, Atene restituisce 200 milioni ma non rassicura e torna a salire anche lo spread italiano. Renzi firma l'Italia come twitta contro i gufi, in pochi ci credevano ma ora tocca a Mattarella. Migliaia di migranti dalla Sicilia a Napoli, primo sbarco anche in Liguria, Alfano chiama tutti, sforzi da distribuire. Il paese senza sindaco, a Platì non si vota, non ci sono candidati nel comune sciolto per 'Ndrangheta. Faceva troppo rumore con la sua pasticceria, una lite tra condomini che andava avanti da anni, sfociata in un omicidio a Pescara, ucciso un pasticcere da un vicino e ora è caccia all'uomo. E allora eccoli, questi i temi della giornata di oggi, ne parleremo con i nostri servizi, la nostra redazione, come sempre i nostri ospiti a effetto giorno. C'è da aggiungere però una notizia, ahimè, dell'ultima ora che arriva dall'Austria, dove ci sono almeno un morto e 10 feriti, almeno secondo le prime notizie, in uno scontro frontale tra due treni su una linea locale nei pressi di Graz. Il luogo dell'incidente si trova in un bosco, quindi difficilmente raggiungibile dai soccorritori. La vittima ha accertata sarebbe almeno il macchinista di uno dei convogli. Lo scontro tra due treni passeggeri locali di una compagnia ferroviaria della Stiria si sono scontrati, secondo un portavoce delle ferrovie austriache, uno dei due treni non avrebbe rispettato l'ALT e questo avrebbe provocato lo scontro. È la notizia degli ultimi minuti, ce ne sono molto altre di cui parlare. E allora cominciamo da quello che è un po' il tema al centro della discussione in questi giorni, la scuola, dialogo, promette il governo, ha promesso ieri dopo la giornata di manifestazioni, ebbene pare che si ricominci a discutere all'indomani delle agitazioni. Il Premier Renzi ha iniziato la giornata con un incontro con i suoi, tra oggi e domani dovrebbe vedere anche i sindacati, insomma qualcosa si muove. Alessandra Schepisi. Sì, è così. Dopo le proteste di piazza il governo apre al dialogo su alcuni contenuti ma fermezza sull'obiettivo, che è quello di portare a casa la riforma nei tempi previsti e quindi approvazione della delega alla Camera entro il 19 maggio e mantenimento di alcuni punti fermi come il potenziamento dell'autonomia scolastica e i poteri del preside, in particolare quello di scegliersi la squadra. Su questi non si torna indietro. Detto ciò, si sta cercando comunque di arrivare ad un testo più condiviso, con ad esempio maggiori contrappesi ai dirigenti scolastici, un piano di assunzioni che riguardi tutto il personale docente precario impiegato da anno, compresi i 6.000 del concorso del 2012. E in quest'ottica l'incontro di questa mattina al Nazareno tra Renzi, il ministro Giannini e Boschi, parlamentari del PD, delle commissioni cultura di Camera e Senato, dove in particolare si è valutata una possibile modifica al potere dei presidi di scegliere i docenti, prevedendo l'ipotesi che questi ultimi possano autocandidarsi e i dirigenti scolastici svolgano colloqui per selezionarli e poi motivino la scelta. Tra oggi e domani una delegazione del PD incontrerà a Nazareno i sindacati e le associazioni della scuola. Insomma, dopo la protesta Renzi si è convinto che non conviene andare allo scontro frontale, tra l'altro con un mondo che rappresenta uno dei tradizionali bacini elettorali del PD, quindi aperture sì ci saranno, ma bisognerà vedere fino a che punto. A te, Anna. Grazie allora ad Alessandra Schepisi. Fino a che punto? Riunione proprio in corso, ma ormai agli sgoccioli. Già vi anticipo, avremo un ospite allora per cercarne di capirne di più. Intanto ci sono anche le tensioni economiche, molte internazionali ed economiche, che pesano, le tensioni sulla Grecia che fanno ancora paura ai mercati, anche lo spread tra BTP e Bund torna a salire, fanno paura le parole di Atene che ribadisce che un accordo con Bruxelles è lontano. E in tutto questo è a Roma oggi per un faccia a faccia con Padoan il ministro Varoufakis. È arrivato, chiediamo innanzitutto al nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Il ministro greco dell'economia sarà a Roma nel primo pomeriggio. L'incontro con il ministro Padoan sarà al Tesoro in via 20 settembre. Rigidamente chiuso alla stampa, il faccia a faccia dovrebbe contribuire a chiarire le incomprensioni di Atene con i vertici di Bruxelles e con il Fondo Monetario Internazionale su taglio del debito e riforme. Il governo greco cerca di fatto alleati e in questo caso l'appoggio di Palazzo Chigi per arrivare a spuntare condizioni vantaggiose nel percorso di uscita dalla crisi. L'isolamento di Tsipras e Varoufakis preoccupa comunque, secondo indiscrezioni Renzi. Il Presidente del Consiglio da sempre a favore del rispetto delle regole europee, in un contesto di maggiore flessibilità teme che accerchiare troppo l'esecutivo di Atene possa deprimere una ripresa dell'area euro ormai avviata e danneggiare di conseguenza anche la nostra economia, come dimostrano gli effetti negativi di ieri sui mercati. È tutto, linea allo studio. Grazie allora anche a Vincenzo Miglietta. Dicevamo, a preoccupare però è la Grecia. Con le ultime forze economiche che ha, Atene ripaga la rata del prestito erogato dal Fondo Monetario, 200 milioni. Le risorse in denaro sono ormai al lumicino, mentre di orgoglio, forse anche un po' strategico, la Grecia ne ha in quantità. Tanto da gettare sul tavolo delle trattative il dissenso tra Fondo Monetario e Commissione, il primo proiettato sulle riforme e la seconda sul rispetto degli obiettivi di bilancio. Senza un accordo tra loro, noi non muoviamo un dito, avrebbero sostenuto da Atene. Secondo indiscrezioni di stampa, poi smentite, il Fondo starebbe anche spingendo per una ristrutturazione del debito da parte dei creditori europei. Ma per Bruxelles non se ne parla, se non dopo la firma di un programma coerente e dettagliato. E mentre Varoufakis incontra Padoan, dopo aver visto anche il collega francese e il commissario Moscovici, la BCE discute sul ritocco alle soglie di garanzia sui collaterali ellenici. Difficile però che ciò accada, le banche greche non riuscirebbero ad accedere al credito di emergenza. Ormai nessuno fa più mistero sul fatto che all'Eurogruppo di lunedì non sarà raggiunto un accordo, anche se qualche progresso è stato fatto grazie anche al nuovo team che Tsipras ha inviato in Europa. E qualcosa si muove anche in casa. Secondo la Bild, il governo programma una tassa per le 500 famiglie più ricche del paese. Sarebbe una delle misure contenute nella nuova lista già inviata a Bruxelles. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa che attende anche un altro test che sarà importante. Domani si vota in Gran Bretagna, a Londra c'è il nostro Sergio Nava. Buongiorno Sergio. Buongiorno Anna. Allora, vigilia ormai, diciamo, di voto, un voto che peserà, dicevamo, anche per gli altri paesi europei, Sergio. Beh, questo sicuramente. Qui appunto si vota, come sappiamo, di giovedì in Gran Bretagna. Tra l'altro mi trovo in questo momento a Victoria Station, che è un po' lo snodo centrale per molti, anche italiani che arrivano qui in Gran Bretagna. La vita è assolutamente normale, quasi non si nota che c'è una campagna elettorale in corso durissima, anche perché c'è la prospettiva concreta di un Parlamento bloccato, perché né Labour, né i laboristi, né i conservatori di David Cameron potrebbero avere un voto nell'assoluta incertezza, tra l'altro. Sì, gli ultimi sondaggi danno un 33-34% tra sia Labour che conservatori, il che significa 270-280 seggi. Tenete presente che la maggioranza assoluta sono 326, quindi quasi 50 in più. Quindi sarà importante sia capire con chi potrebbero allearsi i liberal democratici di Nick Clegg, che si sono già alleati nella scorsa legislatura con i conservatori, ma anche che ruolo potranno giocare i nazionalisti scozzesi, che pensate, con solo il 4% porterebbero a casa circa 50 seggi e diventerebbero veramente un ago della bilancia. Molto più deludente invece dovrebbe essere il risultato per i famosi euroscettici, e qui veniamo anche un po' al tema europeo, di Nigel Farage, lo UKIP, lo UK Independence Party, che si è dato a circa il 13-14%, però poi per il sistema elettorale inglese, che è fatto di collegi uninominali secchi, insomma non dovrebbe fare exploit. 2-3 seggi, quindi praticamente nulla. Quindi il vero, diciamo, la vera questione, se vogliamo tornare all'Europa, Anna, è se vincono i conservatori si farà con ogni probabilità il referendum dentro o fuori dall'Europa nel 2017. Se invece ce la fanno a formare la maggioranza dei laboristi, questo referendum non si farà. E quindi a Bruxelles c'è molta tensione. Quindi c'è da capire cosa succederà domani. C'è a Londra il nostro Sergio Nava, quindi Sergio, ci risentiremo, naturalmente ce lo racconterai. Tanto per dire che anche la legge elettorale spesso fa molto nei risultati del voto, e proprio di legge elettorale torniamo a parlare per quanto ci riguarda, dedicata a tutti quelli che ci hanno creduto. Così il premier Renzi su Twitter ha di fatto pubblicato oggi l'immagine della firma all'Italicum. Ora però tocca al Quirinale. Allora, Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, Anna, ancora non ha finito l'iter dell'Italicum, perché il capo dello Stato Sergio Mattarella non ha ancora firmato la legge elettorale, c'è attesa. Intanto il Premier Matteo Renzi pubblica una foto su Twitter della firma che fa lui apposta in calcio alla nuova legge elettorale, una firma importante, dice Renzi, dedicata a tutti quelli che ci hanno creduto quando eravamo in pochi a farlo. E la firma del Quirinale dovrebbe arrivare in giornata, perché la norma è ben conosciuta al Colle in quanto identica a quella approvata al Senato prima dell'ultimo passaggio alla Camera. Altro aspetto, quello politico: per il capo dello Stato l'Italicum è comunque un prodotto del Parlamento, mentre il consultello era una norma uscita dalla Consulta. Adesso però l'attenzione si sposta sulle riforme costituzionali. Gianni Cupero della minoranza Dem è convinto che la legislatura non arriverà al 2018 ed è necessario vedere se Renzi effettivamente aprirà sulla riforma del Senato. Intanto la minoranza Dem proclama un nuovo leader, è l'ex capogruppo Roberto Speranza. A te, Anna. Grazie allora ad Elisabetta Fiorito. Diciamo solo che si apre anche un altro fronte, perché oltre 500.000 firme contro i vitalizi per i parlamentari condannati sono state consegnate oggi al Senato, saranno consegnate anche alla Camera, perché domani il tema sarà questo, perché si riuniranno gli uffici delle presidenze per una decisione sul taglio dei vitalizi ai parlamentari. Avremo occasione di parlarne. La cronaca ora, perché l'avete sentito nei nostri titoli, una storia folle: accoltellato per troppo rumore, è accaduto a Pescara. Ucciso perché faceva troppo rumore nel palazzo, è questa l'ipotesi che emerge nelle prime ricostruzioni della polizia che indaga sulla morte di Gian Domenico Orlando, pasticcere pescarese di 67 anni. È stato accoltellato questa mattina nel suo negozio al culmine di una lite degenerata con un coinquilino, Raffaele Grieco, ora ricercato. Tra i due, vecchie tensioni condominiali, denunce e procedimenti pendenti per problemi di rumore, vivibilità e gestione del locale. Lite che si è rinnovata questa mattina, ma che questa volta sarebbe finita male. La pasticceria di via Puccini è un locale storico, noto a Pescara. Come note erano le divergenze tra i due, tante le testimonianze dei passanti che dicono di aver udito distintamente le urla e le richieste d'aiuto da dentro il locale. La strada infatti è sempre molto affollata nelle ore della mattina, vista la presenza di una scuola elementare proprio di fronte al negozio. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo anche in Germania. L'ufficio per l'analisi e l'inchiesta sugli incidenti aerei ha confermato quelle che fino ad ora erano indiscrezioni. Andreas Lubitz, copilota della Germanwings, responsabile del disastro aereo delle Alpi, avrebbe provato un'altra volta a scendere di quota durante il volo di andata tra Düsseldorf e Barcellona il 24 marzo. Una prova o un altro tentativo di suicidio prima di quello che gli è, ahimè, riuscito. E ora la Lufthansa punta anche a cancellare il marchio della Germanwings. Andiamo in Germania, Alessandro Merli. Sì, buongiorno. Eccoci. Dagli inquirenti francesi questa notizia di stamattina, che appunto Lubitz avrebbe fatto questo test nel volo di andata. Il procuratore francese ha detto: non so cosa fosse nella testa di questo copilota e quindi non so se avesse già in qualche modo tentato di fare questo schianto già nel volo di andato, se fosse semplicemente una prova per vedere come andava. Meglio nel, ecco, ritorno. In tutto questo la Lufthansa a questo punto è pronta a cancellare il marchio perché è troppo legato alla vicenda. In realtà la cancellazione del marchio Germanwings era già prevista prima dello schianto sulle Alpi francesi del 24 marzo, in quanto lo vuole incorporare in un marchio che si chiama Eurowings, che opererà su più vasta scala, probabilmente anche su voli di medio raggio, oltre che i voli di corto raggio sull'Europa come Germanwings, e quindi tentare di far concorrenza alle linee aeree low cost. Diciamo che è una strategia che Lufthansa aveva previsto da tempo. E ieri, che comunque fa comodo forse. Sì, del primo trimestre ha detto che in realtà il calo della domanda legato all'incidente del 24 marzo è durato alcuni giorni, ma poi le prenotazioni Sono riprese. Ascolta, Alessandro Merli, ve l'abbiamo raccontato già ieri, ci sono 6 giorni di sciopero in questi giorni per le ferrovie tedesche, saranno ferme fino a domenica. Da noi sarebbe già stata la rivolta dei pendolari. Siamo al secondo giorno, come sta andando? Beh, per i pendolari e per le imprese i costi sono abbastanza alti. Ieri ci sono state diverse stime da parte delle organizzazioni imprenditoriali che ritengono che il costo dello sciopero possa arrivare fra i 500 e i 700 milioni di euro. Teniamo conto che circa il 20% delle merci in Germania si sposta su rotaia e che alcuni settori come l'auto, la chimica e l'acciaio sono più esposti a questo tipo. Ecco, i pendolari non sono ancora tutti in piazza perché vogliono viaggiare, si sta attrezzando. No, però chiaramente c'è un aumento del traffico di auto e nel frattempo la Deutsche Bahn, cioè le ferrovie tedesche, hanno proposto un mediatore a questo sciopero dei macchinisti. Grazie allora ad Alessandro Merli, così accade in Germania. Allora speriamo che sia finito lo sciopero per chi sogna Berlino, Carlo Genta. Non c'è mai stato. Allora parliamo della Juventus ovviamente. Intanto Monaco stasera si trasferisce a Barcellona, dove c'è l'altra semifinale. Beh, all'altro giro, insomma. Barça, Bayern Monaco, partita meravigliosa, ma a noi interessa molto di più quanto ha fatto la Juventus ieri sera. 2-1 sul Real Madrid con i gol di Morata al nono, il pareggio di Cristiano Ronaldo al 27esimo, il rigore di Tevez al 12esimo del secondo tempo. E adesso tanti sogni e soprattutto la speranza che fondata che la Juventus possa passare il turno. Un uccellino mi diceva che ieri non c'era grandissimo entusiasmo, grandissima festa nello spogliatoio della Juventus, e questo è un ottimo segno perché vuol dire che sono ancora lì. Un grande risultato sportivo è già stato raggiunto per la Juventus, ma volendo allargare per il calcio italiano, che è tornato protagonista, l'altro risultato sportivo lo conosceremo il 13 di maggio con il ritorno al Bernabeu. Certamente non è finita, ma è cominciata molto bene. Grazie allora Carlo Genta, l'appuntamento naturalmente alle 14 per tornare su tutto questo, sulla serata di ieri. Grazie, il traffico ora, ma torniamo perché ci sono molte altre notizie in questo. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. E le notizie di oggi: la riforma della scuola torna sui banchi, ritocchi dopo le proteste, il premier Renzi ha convocato i suoi, si va verso una ridefinizione del ruolo dei presidi. Varoufakis a Roma, incontro blindato con Padoan, la Grecia che non vuole compromessi fa tremare un po' tutti, Atene restituisce 200 milioni ma non rassicura e torna a salire anche lo spread italiano. Incidente ferroviario in Austria, 2 treni si scontrano, almeno un morto e 9 feriti, ma i soccorsi sono ancora in corso. Migliaia di migranti dalla Sicilia a Napoli, primo sbarco anche in Liguria, Alfano chiama tutti, sforzi da distribuire. E allora ripartiamo proprio da qui, ripartiamo parlando di immigrazione. Devo seppellire chi arriva morto e accogliere chi arriva vivo, come ministro dell'Interno ha detto quest'oggi Angelino Alfano, ma ha aggiunto ci deve essere giustizia e un'equa distribuzione dei migranti, non solo nei paesi europei ma anche nelle regioni italiane. Domani ci sarà un vertice con gli enti locali sull'immigrazione. Intanto però facciamo il punto di cosa sta succedendo, perché intanto in centinaia stanno ancora arrivando tra Messina, Salento, Napoli e uno sbarco è atteso oggi per la prima volta anche in Liguria. Ci aiuta a fare il punto Valentina Furlanetto. Complice il bel tempo e il mare piatto, sono continuati senza sosta gli sbarchi e i salvataggi nel canale di Sicilia. Questa mattina 328 sono arrivati al porto di Messina, 40 i bambini, altri 200 siriani sono approdati in Salento, una novantina di profughi su una motonave in avaria sono stati salvati durante la notte, altre 400 persone sono state tratte in salvo da un mercantile davanti all'isola di Tavolara e a Napoli poi sono arrivati in 562. L'emergenza senza sbarchi sarà al centro del Consiglio di sicurezza dell'ONU convocato per lunedì, ma intanto in Italia si litiga sull'accoglienza. Ci deve essere un'equa distribuzione dei migranti nelle regioni italiane, ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano alla vigilia del vertice con gli enti locali sull'immigrazione e a poche ore dall'arrivo alla Spezia in Liguria di una nave che porterà direttamente al nord per la prima volta 423 migranti che poi saranno distribuiti in diverse regioni. Non sarà certo facile, la Val d'Aosta ha già detto no grazie ai 79 assegnategli dal Ministero e i rappresentanti degli enti locali lamentano di non essere stati consultati, come spiega il sindaco di La Spezia, Marino Federici. Ci rendiamo conto che siamo dentro un'emergenza, un problema di dimensioni molto notevoli. Detto questo, ci farebbe molto piacere se fossimo un pochino più ascoltati. Ma se i centri di accoglienza scoppiano non è solo a causa degli sbarchi di queste ore, dice la Caritas, il responsabile immigrazione Oliviero Forti. Chi viene in Italia chiede di poter ottenere una qualche forma di protezione, per concedergliela bisogna fare un'audizione presso queste commissioni che hanno dei tempi che non permettono ancora in modo veloce di stabilire appunto la condizione giuridica e quindi impone alle persone di rimanere in accoglienza non liberando posti per chi sta nuovamente arrivando. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora torneremo naturalmente anche questo tema a seguirlo nel corso della giornata. Intanto andiamo invece a parlare della campagna elettorale, la campagna elettorale per le amministrative ormai del vivo e anche questa, diciamocelo, pesa sulla discussione. Campagna elettorale però non per tutti, vogliamo raccontarvi una storia perché c'è un paese in Italia dove non si vota, non si voterà ed è il comune di Platì, sciolto per infiltrazioni mafiose. Nessuno vuole fare il sindaco perché è una sconfitta in qualche modo per lo Stato. Allora io saluto Filippo Bubbico, vice ministro all'interno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Effetto giorno. Buongiorno. Allora, che succede a Platì? Da quando non c'è un primo cittadino? 3 anni più o meno. Dicevamo, è una sconfitta in qualche modo? Ma sicuramente è una sconfitta della democrazia e della legalità. Ci troviamo in un contesto estremamente difficile, segnato dal dominio criminale. L'andrangheta controlla molte attività anche economiche e condiziona le attività delle istituzioni locali, questo risulta sempre più evidente. E in quel comune c'è già stato uno scioglimento per infiltrazione mafiosa ed oggi registriamo questo insuccesso della Repubblica. Allora, perché diciamo che fare il sindaco lì non è esattamente come fare il sindaco in altri paesi italiani, e questo va detto, insomma, ci vuole forse ben più coraggio, però non sarebbe forse simbolico trovare appunto un personaggio di primo piano per candidarsi lì e far sentire forte lo Stato? Ma io penso che noi dobbiamo ricostruire le ragioni dell'impegno civile, perché attivare una circolazione extracorporea può servire per una fase estremamente limitata, ma poi bisogna tornare all'ordinarietà e le gestioni commissariali hanno esattamente questo scopo. Evidentemente il contesto non risulta sufficientemente bonificato e non esistono ancora gli anticorpi necessari per mettere in campo uno spirito civico. Ma al di là di un commissario, un candidato in qualche modo di bandiera per dire qui comunque presidiamo, potrebbe essere un'ipotesi possibile? Detto che ormai non si vota ora, bene che vada, si vota in autunno, giusto? Ma guardi, queste sono valutazioni che le forze politiche possono fare, proponendo candidati anche esterni, come diceva lei, di bandiera. Ma io credo che noi abbiamo il dovere di riflettere sulla agibilità democratica che spesso manca in molti contesti territoriali e questo non per carenze nelle attività delle forze di polizia o della magistratura. Ma quindi lei dice la vera sconfitta è che da lì non venga qualcuno. Esatto, esatto. Vedremo cosa succederà. Grazie intanto Vice Ministro all'Interno Filippo Bubbico. Allora, Platì, il paese dove non si vota. Una storia di un'Italia con tanti problemi, tante facce. Una di queste è anche il suolo italiano. Frane, smottamenti, strade bloccate. Tante volte si è denunciato un paese che fatica a conservare il suo territorio. Eppure pare questo vizio resta, perché il consumo del suolo in Italia è ancora a livelli difficili. Allora, questa mattina è stato presentato il rapporto sul consumo di suolo in Italia, è stato presentato dall'ISPRA, ne parliamo. Allora, tra pochissimo ci raggiungerà un altro ospite. Nel frattempo, allora, parliamo anche d'altro e di un'altra polemica che invece sta montando. Non associateci agli scontri di Milano. Questa mattina sui quotidiani italiani c'è stata una pagina per dissociare di una nota marca di orologi. Sentiamo. Attenzione, è l'ora del Rolex. Dopo la foto della Black Block con Rolex al polso e i commenti di Alfano e Renzi sui figli di papà con Rolex, si è acceso sui media il famoso dibattito da corazzata Potionchi. E questo perché? Perché la stessa azienda svizzera, comprando una pagina di giornale, ha chiesto al governo una rettifica formale. La sostanza è: non potete offenderci equiparandoci a gentaglia che spacca le vetrine. Il Rolex è uno status di prestigio che può andar bene al figlio dell'ex ministro Lupi, ma non a tipacci incappucciati. La Rolex fa il suo mestiere, che è quello di tutelare il marchio e poi farsi ancora un bel po' di pubblicità gratuita, sapendo che poi tutti ci saremmo cascati con domande del tipo: ma se uno schifa il mercato, perché ambisce a Rolex? Non è contraddittorio? Tutto giusto, ma anche rovesciabile. Adesso questi Black Block sono considerati dei balordi da sbattere in galera, ma tra 20 anni magari anche loro faranno tendenza, diventeranno consumatori interessanti per il mercato. In fondo anche quelli del 68 spaccavano le vetrine e adesso invece sono tutti in prima fila, classe dirigente, ben poco disponibili, anche se incanutiti, a schiodarsi dalle loro lussuose poltrone. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed eccoci, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a raggiungere anche il nostro ospite, Michele Munafò, coordinatore del report di ISPRA sul consumo di suolo. Benvenuto a Effetto Giorno. Grazie, buongiorno. Allora, dicevamo, un'Italia con tante facce, una di queste sono le frane, gli smottamenti, il suolo difficile da governare. Eppure, par di capire, il vizio in qualche modo resta. Avete presentato il rapporto sul consumo di suolo in Italia, cosa scopriamo? Scopriamo che continuiamo a consumare suolo. Negli ultimi anni si continua a perdere terreno con edifici, infrastrutture, strade, coprono questa risorsa fondamentale con una velocità compresa tra 6 e 7 metri quadrati di territorio. In particolare poi questo consumo di suolo che in 5 anni ha coperto di 1000 km quadrati si va a concentrare in alcune fasce particolarmente critiche e delicate del nostro territorio. Ecco, quali sono? Sempre le stesse? Diciamo che è noto dove sono, però i numeri che abbiamo presentato quest'anno mostrano con evidenza riallarmante questo fenomeno. In particolare abbiamo visto che circa il 20% della fascia costiera italiana, ma la fascia costiera quella più delicata, quella più importante, cioè i 300 metri dalla linea di costa, è coperto dal cemento. Questo è un numero che è pari a 3 volte la media nazionale. Quindi il consumo di suolo avanza in queste zone, ma avanza anche in zone che non dovrebbero essere consumabili. Qualche modo. Ci stiamo mangiando le nostre coste in qualche modo. Stiamo mangiando le coste, praticamente abbiamo perso ormai l'esistenza dell'intera costa sarda, per capirci. Ecco, diamo anche un segnale positivo invece: dove si è fatto qualcosa, dove va meglio? Va meglio ovviamente in alcune aree del nostro pianeta, del nostro paese, che sono più difficili da consumare, magari per ragioni orografiche, ad esempio le aree montane, le aree in pendenza. Quindi il consumo di suolo si concentra più nelle zone di pianura, si limita, ma anche qui è un meglio relativo, nel senso che abbiamo consumato comunque anche un 2% di queste zone che noi consideriamo non consumabili, ad esempio le montagne, le zone umide. Insomma, un po' dappertutto, ce la stiamo un po' mangiando questo territorio italiano. Grazie allora Michele Munafò, coordinatore report ISPRA sul consumo di suolo. Forse anche su questo ancora ci sarebbe da riflettere. Noi però solo una piccola pausa, torniamo anche per vedere come vanno le borse. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E le notizie di oggi, la riforma della scuola che torna all'esame, ritocchi dopo le proteste, il Premier convoca i suoi. Varoufakis a Roma, incontro blindato nel pomeriggio con Padoan, Atene restituisce 200 milioni ma non rassicura e torna a salire anche lo spread italiano. In Austria scontro tra due treni, soccorsi in corso ma ci sono almeno un morto e 9 feriti. Queste le principali notizie, ma vediamo anche, dicevamo, tra le tensioni per la Grecia come va la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Le svolte storiche, le svolte diplomatiche passano anche da svolte pratiche. Niente più frontiere difficili da superare tra Stati Uniti e Cuba. Viaggiare sarà più immediato, più semplice per tutti. Non accadeva da 50 anni, si potrà viaggiare dagli Stati Uniti a Cuba in traghetto sull'antica rotta tra Miami e La Habana o in aereo con decollo da New York. Effetti del disgelo tra gli States e l'isola caraibica, iniziato nello scorso dicembre con la riapertura delle relazioni diplomatiche annunciata dal presidente americano Obama e dal leader cubano Raul Castro. Il blocco economico deve cessare. Collegamenti via mare o via cielo. Per i voli l'ora X scatterà il 3 luglio, andata e ritorno con la compagnia JetBlue tra la Grande Mela e La Habana. Mentre per i viaggi via mare il governo federale dovrà scegliere tra le 5 compagnie che hanno fatto richiesta. Una Cuba che guarda anche ai diritti civili. La figlia di Raul Castro, Mariela, presentando la giornata contro l'omofobia, ha chiesto che sia approvata una legge in favore dei gay. Bueno, la prima legge che già contempló la non discriminazione per orientazione sessuale. Cuba che si riavvicina anche all'Europa. Domenica mattina Castro sarà ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. Una visita definita strettamente privata dalla Santa Sede che il pontefice ricambierà a settembre, diventando così il terzo Papa ospite a La Habana. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora, parlavamo dell'emergenza immigrazione, dicevamo ci torneremo anche nel corso della giornata. Immigrazione che intanto si fa anche arte. Sabato aprirà al pubblico la 56esima Biennale d'Arte di Venezia e tra le opere più significative esposte quest'anno c'è anche quella di un noto artista brasiliano, Vic Muniz, intitolata Lampedusa, concepito proprio dopo il naufragio del 2013. Mara Sartore, editore di Mi Art Guide, partner del progetto Lampedusa, e al microfono di Adriana Facchia. Questa barca galleggia tra il desiderio e la migrazione, quindi due elementi veramente quasi in contrasto ma che sono spesso uniti, come poi lui ci racconta, e portare attenzione su questa tematica in un contesto diverso che quello dell'arte contemporanea, dove però c'è tanta gente importante. Insomma, Venezia ha due caratteristiche principali: uno, la vetrina incredibile che è Venezia, ovviamente Biennale ormai è un evento di portata mondiale, cioè, quindi sicuramente il primo elemento era scegliere una piattaforma di grande visibilità dove fare appunto queste sfide e portare l'attenzione su questo tema. L'altro elemento, l'elemento della migrazione su Venezia, quindi Venezia come centro, crocevia di culture, di incontri, se la volete immaginare sembra una di quelle barchette che si costruiscono da piccole, le di carta, che è fatta con i giornali che annunciavano questo grosso naufragio in mare che ci fu appunto in ottobre del 2013, uno dei più tragici. Lo spazio dedicato agli autotrasportatori e poi anche il traffico per noi. Hashtag autotrasporti. Elaborato da un comitato di saggi, il piano nazionale dei porti è ora in dirittura d'arrivo. Questione di settimane, ha annunciato il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio in visita nei giorni scorsi a Napoli, dove ha nominato il nuovo commissario dello scalo. La riforma, avviata dal suo predecessore Maurizio Lupi, è destinata a diventare un crocevia per le rotte di mare e di terra che governano e dirigono la logistica nazionale, con ricadute strategiche per il comparto dell'autotrasporto ad ogni latitudine. La scelta più delicata geopoliticamente è quella degli hub, cioè dei 14 14 porti considerati strategici per il sistema nazionale e attorno ai quali, a suo modo, ruoterà l'operatività degli altri scali nella prospettiva di un'unica grande piattaforma logistica affacciata sul Mediterraneo. Una riforma che sta per approdare dopo anni di ritardo. L'ultimo piano risale al 1994, un ritardo che, lamentano gli operatori, ha limitato pesantemente le chance di sviluppo, diminuendo la competitività e quindi la capacità dei porti italiani di diventare poli attrattivi lungo i flussi di merci indirizzati soprattutto verso il nord Europa. Insomma, l'obiettivo è quello di fare una volta tanto sistema. Concetti e linee programmatiche che il ministro Del Rio ha ribadito in questi giorni. Una riforma che non può non passare dal superamento di modalità e formalità tecniche ormai fuori dal tempo. Le operazioni doganali oggi ricadono nelle competenze di 23 enti, giusto per capire. I porti italiani sono poco competitivi, ha detto Del Rio, perché hanno troppa burocrazia, impiegano troppi giorni per le procedure doganali e così via. Ma in ballo ci sono anche e soprattutto le infrastrutture, tema cruciale di stringente attualità dopo il caso Sicilia con l'interruzione dell'autostrada e l'isola spezzata in due. Del Rio ha sottolineato un salto in avanti anche in questa direzione. Il 70% delle merci importate infatti arriva via mare. Per questo, secondo il ministro, diventa fondamentale migliorare i collegamenti tra i porti e le principali vie ferroviarie e stradali. Nel piano, ha sottolineato Del Rio, c'è un sistema integrato al servizio delle nostre imprese e del nostro paese. Il piano è ambizioso e prova a dare anche qualche numero. Nel 2013 i porti italiani hanno movimentato 10 milioni di TEU, l'unità di misura dei container. L'obiettivo al 2020 è di movimentarne fino a un massimo di 15 milioni per arrivare al 2030 a 26 milioni. Il traffico RoRo passerebbe dai 75 milioni di tonnellate del 2013 ai 110 milioni nel 2030. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.